in primo piano. Buongiorno, buon venerdì da Giulia Crivelli. Oggi è l'ultimo giorno, poi lunedì, come sapete, torna Alessandro Milan nella radio, torna alla sua consueta programmazione post-agostana, possiamo dire così. Se volete mandare dei messaggi, il 349-238-6666, se volete anche mandare messaggi su Twitter o Facebook, io sono su questi due social network, forse sono fin troppi. E comunque poi ci risentiamo domani per la rassegna stampa dei settimanali, però oggi è l'ultimo giorno mio di quella dei quotidiani. Cominciamo dal Sole 24 Ore come sempre, anche perché su tutti i giornali trovate i temi che avete appena sentito nel GR, cioè i problemi della giunta a Roma con le 5 dimissioni di ieri e la grande polemica sulla campagna per la fertilità, di cui tra l'altro si parlerà ma cos'è quest'estate, quindi io magari vi citerò solo un paio di commenti che possono far riflettere. Ma cos'è quest'estate, che è il programma che ci sarà subito dopo il GR delle 8. Dal Sole 24 Ore però vi segnalo l'apertura, perché questo potrebbe essere veramente una svolta sia per la crisi che ancora l'Italia sta vivendo, crisi economica, sia per scongiurare quello che fin troppo spesso abbiamo sentito evocare come l'autunno caldo, l'autunno delle proteste. Perché ieri c'è stata una proposta congiunta al governo delle cosiddette parti sociali, cioè i sindacati e Confindustria, e credo che la maggior parte, la stragrande maggioranza di voi sappiano che il Sole 24 Ore, l'azionista di maggioranza del Sole 24 Ore, che è una società quotata, è Confindustria. Comunque era, mi sembrava giusto dirlo, questo il Sole 24 Ore titola su questo, ma mi sembra davvero che potrebbe essere, visto che da tantissime parti si dice che in Italia manca, è mancata una vera politica industriale, lo dicono gli industriali, ma molto spesso lo dicono anche i sindacati, ripeto, questo potrebbe essere veramente una svolta. Il titolo è Ammortizzatori e crisi, intesa fra le parti sociali, perché ricordiamo anche questo, l'Italia rispetto a tanti altri paesi europei ha un sistema di ammortizzatori sociali e di welfare che da alcuni punti di vista sembra fin troppo favorevole e da altri molto meno. Non esiste un vero e proprio sussidio di disoccupazione, per esempio, e tra l'altro sulla questione della cassa integrazione straordinaria va affrontata, perché non ci sono più fondi. Questo poi si spiega molto bene all'interno del Sole 24 Ore. Sono temi che riguardano tantissimi lavoratori, e da qui il commento di Alberto Orioli, che è uno dei vice direttori del Sole 24 Ore e da sempre si occupa in particolare di problemi del lavoro. Il suo editoriale si intitola Il valore del metodo. La tragedia del terremoto ci insegna che l'Italia migliore sa unirsi nella risposta generosa e solidale ai colpi del destino e della natura, e ci dice che questo è il metodo più efficace per cercare risposte per il futuro e per organizzare l'azione di prevenzione. Non sembri fuori luogo, ma quello stesso metodo è ciò che va salutato con favore nell'intesa di ieri tra Confindustria e sindacati. L'accordo, una sorta di avviso comune al governo, è un passo avanti importante proprio nel metodo, prima ancora che nel merito. Le parti sociali dimostrano di aver ritrovato il dialogo su fini comuni, con il preciso intento di prevenire i conflitti prima di farli esplodere. Evitare di gestire le relazioni industriali come puro esercizio emergenziale può aiutare a cercare le condizioni per una crescita più duratura e solida. Una firma congiunta sta già in calce all'intesa del luglio scorso sui premi di produttività per le piccole e medie imprese. Questo secondo accordo è un altro segnale di una nuova preziosa convergenza sociale per il governo della transizione industriale del paese. Ora spetta al governo non vanificare questo sforzo, che, non va dimenticato, è potente vitamina per la fiducia. Sapete che qui termina il breve commento editoriale di Alberto Orioli, e la fiducia che è difficilmente misurabile, ma è una componente importantissima dell'economia, sia per quanto riguarda i consumatori che per quanto riguarda le imprese. Abbiamo visto gli ultimi dati non buoni di 3 giorni fa resi noti dall'Istat. Grazie a tutte le persone che stanno mandando dei messaggi al 349-238-66. Non tutti è sempre positivi, anzi c'è anche un ascoltatore che dice che sono inascoltabile, ma può cambiare, credo, può sintonizzarsi su un'altra stazione, semmai. E comunque dice, per fortuna è l'ultimo giorno, ma ripeto, ce ne sono anche tanti, mi fa tanto piacere che invece mandano dei messaggi positivi. La prima pagina del Sole 24 Ore, abbiamo visto, era dedicata a questa intesa tra le parti sociali. Tutti gli altri quotidiani si concentrano sulla crisi a Roma, che viene definita per esempio dal Corriere prima crisi per i 5 Stelle. Avete sentito le ultime novità sono quelle che avete sentito anche nel GR. Vedremo oggi che cosa succederà, quindi non mi dilungo più di tanto su questo tema perché appunto è una vicenda veramente in divenire. Dalla prima pagina del Corriere della Sera vi segnalo invece l'intervento di Ernesto Galli della Loggia che torna sulla questione del burkini, prima vietato quel costume che copre tutto tranne il viso, le mani e i piedi, scelto dalle donne, da alcune donne musulmane, non credo da tutte. Forse ricorderete la vicenda, è stato vietato in alcune località balneari francesi, il Consiglio di Stato francese ha poi bocciato queste misure, non è ancora chiaro come si muoveranno i comuni perché in teoria devono obbedire al Consiglio di Stato, ma i sindaci di queste località insistono nel difendere questo divieto di usare il burkini. La Repubblica, 5 dimissioni per la Raggi, caos 5 Stelle, a Roma è già paralisi. È il commento di Massimo Giannini, che prima di andare a Ballarò era vice direttore della Repubblica. Io, nei giorni scorsi non ho visto la sua firma, ma credo che con questo torni ufficialmente alla Repubblica, perché, come sapete, la conduzione di Ballarò passerà a un altro giornalista. Il titolo del suo editoriale è l'innocenza perduta dei 5 Stelle, naturalmente. Vi segnalo solo brevemente l'intervento di Roberto Saviano sulla questione del Fertility Day e della campagna già ritirata a meno di 24 ore da quando è stata presentata, la campagna che promossa dal Ministero della Salute, tant'è che poi il Ministro della Salute ha dovuto difendere questa scelta, dicendo anche, ammettendo l'errore di fronte a tante critiche e dicendo che la campagna si può cambiare. E quindi ripeto, questa campagna adesso la possiamo vedere e rivedere solo quando viene riprodotta dai giornali o dai siti che l'avevano vista perché ufficialmente è stata ritirata. In ogni caso, come ho detto prima, di questo tema si parlerà poi a Ma cos'è quest'estate? Vi segnalo appunto l'intervento di Roberto Saviano che si conferma tuttologo, questo ragazzo del 79 che deve ancora compiere 37 anni, ma si esercita veramente su qualsiasi tema ci sia da commentare. Lui evidentemente si sente in diritto di commentare e di dare molto spesso consigli, non so, di tipo morale, ecco. Oggi non si smentisce e però secondo me cade in un piccolo grande errore dal mio punto di vista, perché all'interno scrive: perché la ministra si è rivolta solo alle donne? Dove sono gli uomini? Dopo decenni in cui l'uomo e la donna hanno fatto acrobazie per ricalibrare il loro rapporto in funzione di una maggiore presenza del padre e di una equa suddivisione dei compiti, come può una ministra proporre una comunicazione maschilista che annulla tutto questo? Io vorrei solo ricordare a Saviano che purtroppo, auspicabilmente, questa condivisione dei compiti ci potrebbe essere. In realtà, e lo dimostrano i dati sul numero di congedi parentali richiesti da quando questo è possibile, quando una coppia ha un figlio, gli uomini credo che sia un numero ridicolo, tipo 3 o 4. Allora, non è vero che c'è questo percorso è molto all'inizio, almeno in Italia. Quindi non so se si vuole commentare, se si vuole appunto, perché poi è un pezzo molto lungo che trovate richiamato in prima pagina, ma occupa quasi una mezza pagina, poi a pagina 27, almeno insomma alcuni dati sulle questioni che si giudicano, forse varrebbe la pena di raccoglierli, ma vabbè, forse avrete capito, insomma io non, sì certo ho delle opinioni, ma preferisco appunto non essere mai tranchant su argomenti che per forza di cose non si può conoscere alla perfezione. Come forse quasi tutti gli argomenti. La stampa 5 Stelle, la tempesta di Roma, anche in questo caso quindi titolo principale dedicato alla giunta di Virginia Raggi che a 2 mesi dal suo insediamento è ancora molto in difficoltà. Il Buongiorno di Gramellini si intitola Il complotto e è dedicato anche in questo caso al Fertility Day e soprattutto al fatto che la ministra ha dichiarato, come ho detto prima, che la campagna verrà ritirata e che se ne può fare una migliore. E nel frattempo Matteo Renzi, interrogato su questa mossa del suo ministro, ha detto che non ne sapeva nulla. Quindi Gramellini gioca un po' su questa vicenda poco chiara, perché tutto sommato una campagna su un tema molto importante per l'Italia, di cui il Premier diceva di non sapere niente. Su alcuni giornali ci sono dei riferimenti alla partita di ieri sera dell'Italia, perché sapete, era il debutto del nuovo CT Andrea Ventura. La Gazzetta ovviamente apre su questo tema: Fratelli d'Italia, dov'è la difesa? Ventura, debutto amaro, la Francia ci batte 3-1. E poi, sempre in prima pagina, invece, un riferimento alla vicenda che abbiamo visto anche nei giorni scorsi: ci si avvicina al Gran Premio di Monza, che è stato in pericolo fino all'ultimo momento, nel senso che il patron della Formula 1, Ecclestone, aveva minacciato più volte di levare questo Gran Premio all'Italia e a Monza in particolare. Oggi ci sono le libere, alla fine si è trovato appunto l'accordo e la Gazzetta spiega: Vettel, il pilota della Ferrari, naturalmente scalda Monza, Ferrari sul podio, dice. Dal secolo XIX, vi segnalo, l'abbiamo visto anche nei giorni scorsi, è quello che è il giornale di Genova, il quotidiano di Genova, che ha seguito di più questa vicenda. In prima pagina oggi c'è la fotonotizia del relitto della Concordia, che è stato spostato, ha fatto il suo ultimissimo viaggio, è stato spostato nel bacino di demolizione del porto di Genova. Il titolo, di questo pezzo, è Addio alla nave senza più anima. E comunque nella foto si vede, l'avete trovata anche su internet, questa foto, questo relitto con due rimorchiatori davanti, davvero è una Concordia irriconoscibile già ora. Il giorno, sempre titolo, in questo caso in realtà la fotonotizia è dedicata a Roma, il titolo è dedicato al terremoto, che, come avrete capito, non è più il titolo principale dei quotidiani. Sono passati 9 giorni e appunto non è già più il titolo principale dei quotidiani. Il giorno, Stelle cadenti, il movimento naturalmente a riferimento al Movimento 5 Stelle, il titolo principale però Errani, commissario muto. Perché questo titolo? Perché forse anche questo lo ricorderete, nei giorni scorsi un sismologo, Enzo Boschi, aveva detto: io già nel 2012 avevo allertato sui rischi sismici, ma non è stato fatto nulla. E la ricostruzione, poi c'è un riferimento invece a quello che ha detto ieri Vasco Errani, che da ieri è ufficialmente il commissario alla ricostruzione scelto dal governo Renzi, ha detto: per quanto riguarda la ricostruzione di Amatrice, il paese che ha subito i maggiori danni e che soprattutto ha avuto il maggior numero di morti, quasi 300, non applicherò il modello Emilia. Quindi, come dire, che ogni situazione post-terremoto va studiata ed è quello che ha promesso, si accinge a fare. Il Messaggero, come potete immaginare, un titolo molto, che occupa praticamente tutta la prima pagina, e anche il commento di Mario Aiello è dedicato a questo: raggi in crisi, faida nel Movimento 5 Stelle. Per chi volesse appunto magari avere dei retroscena, cercare di capire davvero che cosa sta succedendo, ci sono tre pezzi che poi trovate all'interno: Virginia nel bunker minaccia l'addio, e c'è anche, secondo Simone Cannettieri, c'è stata una lite, un'aspra lite con Paola Taverna, che è l'altra esponente principale di Roma del Movimento 5 Stelle, e che si dice, perché poi ufficialmente hanno le due protagoniste, Virginia Raggi e Paola Taverna, hanno sempre smentito, si dice che le due non siano mai andate d'accordo. Poi c'è un'intervista a Marco Rettighieri, che ha lasciato la guida dell'ATAC, l'azienda del trasporto pubblico, uno dei cinque dimissionari di ieri, che in questa intervista dice a Lorenzo De Cicco: sono andato via perché in ATAC c'è un sistema clientelare che asponde nella giunta, una cosa abbastanza pesante. E poi un ritratto che trovate sempre a pagina 3 di questo che viene definito il super Minenna, Marcello Minenna, che da capo di gabinetto si è anche lui dimesso, ed era tra l'altro un ex funzionario della Consob, quindi un uomo anche di grande esperienza finanziaria, perché sappiamo quanto sono dissestate le casse di Roma, quindi l'aspetto economico naturalmente è il problema principale da risolvere per Virginia Raggi. Senza soldi non si mettono a posto le buche, non si fa niente. E appunto questo personaggio, che viene definito in questo ritratto che ne fa il Messaggero, la spina nel fianco del sindaco fin dalla sua nomina. L'unità fuga dal Campidoglio, come potete immaginare, l'unità si getta su questa notizia, e anche in questo caso il terremoto finisce in secondo piano, a fondo pagina: Errani, così rinasceranno i paesi distrutti. Il manifesto ha, come spesso accade, tenta così un gioco di parole, un titolo a effetto, ecco, diciamo così. Quindi la foto è di Virginia Raggi, il titolo Disgiunta. Però il manifesto ha anche molto da spazio al terremoto e anche torna sulla questione del referendum, il referendum costituzionale, con l'ultimissimo in ordine di tempo, ma ce ne saranno chissà quanti altri, le ultimissime parole, l'ultimissimo intervento di Massimo D'Alema che, come probabilmente sapete, ormai ha... Mentre fino a un mese e mezzo fa era un po' cauto, non aveva detto che era sicurissimo di votare no al referendum per approvare la riforma della Costituzione, già approvata dal Parlamento, adesso lo ha proprio detto chiaramente che voterà no, anzi sta organizzando dei comitati per il no all'approvazione di questo referendum. Libero ha un'apertura ancora diversa sugli immigrati, italiani esausti, un titolo che viene da un sondaggio che è stato fatto in esclusiva per Libero da Renato Mannheimer, che è il sondaggista, una sua società di sondaggi. Non la fotonotizia, ma il disegno di questo caricaturista che si chiama Benny, che spesso firma le copertine di Libero, è dedicato a Cantone, che viene definito Dio Cantone. Il riferimento naturalmente è al presidente dell'autorità anticorruzione, perché, come abbiamo visto nei giorni scorsi, sono già state aperte delle indagini su quello che è successo prima, sui fondi che sono stati male utilizzati, per usare un eufemismo probabilmente, e che invece erano già stati stanziati per mettere in sicurezza alcuni dei paesi che poi il terremoto ha quasi raso al suolo. Ci lasciamo un attimo per una breve pausa e poi invece torniamo su un altro tema, quello del referendum per il quale Libero sta raccogliendo le firme, cioè un referendum per far uscire l'Italia o dall'euro o addirittura dall'Unione Europea. Devo due precisazioni all'ascoltatore che mi dice: ma sei matta a definire un 37enne giovane? È vero, però purtroppo in Italia basta guardare l'età media della nostra classe dirigente, a 37 anni tutto sommato si è ancora definiti giovane, ma non è quello il punto. Credo che anche a 37 anni, anche se si sta negli Stati Uniti, in Russia o ovunque altro, non credo che si abbia la maturità per poter esprimere dei giudizi morali su tutto, come fa appunto Roberto Saviano. Questo era quello che volevo dire. E poi ha ragione l'ascoltatore, l'allenatore della nazionale non si chiama Andrea, ma si chiama Giampiero. E con questo, queste due precisazioni. Ma dicevamo su Libero che, oltre a parlare del referendum per il quale tra l'altro non è ancora stata fissata una data, ma sarà presumibilmente in novembre, per il quale saremo tutti chiamati a dire di sì o di no alla riforma della Costituzione, quest'altro referendum che invece Libero vorrebbe promuovere per l'uscita dell'Italia o dall'euro o addirittura dall'Unione Europea. E a questo devo un'altra precisazione a un ascoltatore che mi ha scritto nei giorni scorsi, quando ho detto che questa raccolta firme lascia un po' il tempo che trova, perché un referendum come quello che c'è stato in Gran Bretagna per la Brexit in Italia non si potrebbe fare. Perché, mi ha detto lui, perché la nostra Costituzione prevede, credo sia l'articolo 75, che i trattati internazionali, cioè compreso quindi quello che ci lega, che ci ha portati a fare parte dell'Unione Europea, di cui tra l'altro siamo uno dei sei paesi fondatori, all'inizio si chiamava Comunità Europea, ecco, sui trattati internazionali non ci può essere un referendum, non si può indire un referendum per questo, ma naturalmente, come avevo detto, può essere uno strumento di quella che gli anglosassoni chiamano moral suasion, cioè comunque far vedere che ci sono tante persone in Italia. Una raccolta simile l'avevano già fatta anche i 5 Stelle, tante persone in Italia che si interrogano, se non altro, sulla permanenza dell'Italia all'interno dell'euro e dell'Unione Europea. Il giornale Retromarcia su Roma, quindi anziché Marcia su Roma, Retromarcia su Roma, anche qui un po' un titolo a effetto, il pezzo principale del direttore del giornale Alessandro Sallusti quindi anche in questo caso il terremoto è un po' sparito, è dedicata a una vicenda legata indubbiamente al terremoto, ma è la fotonotizia che racconta di questo convento di clausura che non è più in sicurezza e quindi storie di vita, insomma, storie concrete, al di là appunto del problema della ricostruzione. Poi ci sono, abbiamo visto nei giorni scorsi, tutte le storie delle persone salvate, dei cani soccorsi e degli animali soccorsi. Tutte le storie di famiglie spezzate, di persone che non hanno più le case, insomma, proprio il lato umano, anche questo naturalmente lo è, questa vicenda del convento che, poiché è diventato inagibile, ha costretto i responsabili a dire alle suore di clausura: ci spiace, non potete più essere, appunto suore di clausura, e quindi sono state decise delle nuove destinazioni, per queste 23 suore del monastero di Santa Maria delle Rose di Sant'Angelo in Pontano, in provincia di Macerata. Avvenire, l'ottava opera. Qui il titolo è dedicato al messaggio che ha dato ieri Papa Francesco per la Giornata Mondiale del Creato, dove si è proprio occupato del tema dell'ecologia. Sappiamo quanto, se seguite Radio 24, per esempio la trasmissione L'altro pianeta di Laura Bettini, quanto il tema sia importante e quanto soprattutto sia tra le nuove generazioni ci sia una maggiore sensibilità a tutta la sostenibilità ambientale e il modo in cui trattiamo questo pianeta. Appunto, il titolo principale dell'Avvenire è dedicato a questo, e all'interno, tra l'altro, trovate l'intervento di Papa Francesco integrale. Subito sotto il titolo su Roma: bufera 5 stelle tra dimissioni e accuse. E poi, naturalmente, anche approfondimenti, richiami ad approfondimenti sul terremoto. A proposito di questo intervento di Papa Francesco, e anche qui magari se anche oggi è in ascolto l'ascoltatore che ieri si è lamentato perché io polemicamente ho indicato l'articolo di Antonio Socci, che era stranamente non dedicato a criticare Papa Francesco, quello di ieri, oggi invece inevitabilmente è così. Una critica molto dura alle parole di Papa Francesco. Le visioni climatiche di Papa Francesco, a pagina 4, dove appunto Socci fa una serie di rilievi e spiega perché, questo per l'ennesima volta, perché secondo lui Papa Francesco sta sbagliando, sta abbracciando le teorie sbagliate. Siccome non voglio fare ulteriori polemiche, però davvero al nostro ascoltatore, se vuole, se trova tutto richiamato in prima pagina, su Libero e poi a pagina 4. Svolta ecologista di Bergoglio, ora chiede una conversione ambientalista e si scaglia contro chi non fa la raccolta differenziata. Intanto, questo è un altro dei rilievi molto forti, molto pesanti direi, che Socci fa al Papa: con le sue tesi aperturiste su migranti e Islam fa a pezzi migliaia di anni di dottrine della Chiesa. Il Fatto Quotidiano: Virginia, sindaca di Mezzata, titolo principale del Fatto, e poi subito sotto però gli aggiornamenti sul terremoto, tutte le verità di Amatrice che ci dà conto di quell'inchiesta, delle numerose inchieste già aperte sui crolli. Invece su Italia Oggi un consueto editoriale di Pierluigi Magnaschi, il direttore di Italia Oggi, che torna sulla questione della Apple che paga così poche tasse. Sappiamo un'aliquota che è arrivata allo 0,05%, e il titolo è: Apple paga in tasse solo lo 0,005% del suo utile, un metalmeccanico il 16%. E Magnaschi chiede, ironicamente potremmo dire, ma la Camusso, Susanna Camusso, segretaria della CGIL, il principato sindacato italiano, che dice? Ha qualcosa da commentare? Il Foglio in prima pagina ha le due questioni un po' di ieri, cioè da una parte quello che è successo a Roma e le polemiche sul Fertility Day. Il pezzo su Roma è firmato da Giuliano Ferrara, fondatore del Foglio e ora editorialista, perché ne è stato direttore. Ora la mano è passata a un altro giovane, mi perdoni l'ascoltatore, ma un direttore under 40 in Italia è ancora un caso raro, e questo invece è il caso di Claudio Cerasa. Il titolo dell'articolo di Giuliano Ferrara è: Nuova classe non dirigente. Mandiamo adesso alle pagine interne e anche oggi, io ho visto poi tra l'altro appunto il mio ultimo giorno, seguirei lo stesso schema, cioè di citarvi gli approfondimenti sulle conseguenze del terremoto. A pagina 8 Mariano Maugeri, che come avete sentito anche nei collegamenti è partito per le zone terremotate praticamente alla mattina prestissimo di mercoledì scorso, quando hanno cominciato ed è stato lì poi per molti giorni. Questa è un'intervista appunto a Enzo Boschi, il sismologo, quello che aveva parlato degli appelli non ascoltati che aveva fatto sul rischio sismico. Ora sappiamo tutti, e lo dice lo stesso Boschi, che lo dicono tutti i vulcanologi, che non si può prevedere la data di un terremoto, però si possono individuare le zone sismiche e con un ragionevole, in un ragionevole lasso di tempo prevedere anche che ci saranno delle scosse. E quindi il titolo scelto per l'intervista, dopo l'Aquila, e parliamo del terremoto del 2009, una replica, questa è stata una replica prevedibile, ma non si è fatto nulla. Un altro interessante approfondimento, la posizione del sottosegretario al governo De Vincenti, che a pagina 9, in un articolo vengono riprese le sue dichiarazioni e poi usate per titolare l'intervista: risarcimenti a tutti i danneggiati dal sisma. Questa è la, diciamo, promessa di De Vincenti: ricostruiremo non solo i centri abitati, ma anche le imprese. E poi, visto che comunque ci sono state anche polemiche sulla nomina di Vasco Errani, che lo ricordiamo, era governatore dell'Emilia-Romagna quando c'è stato il terremoto nella zona, e Ilaria Vesentini, che è la nostra corrispondente dall'Emilia-Romagna, in particolare da Bologna, spiega il precedente. Nella gestione dell'emergenza post-sisma del 2012, l'ex governatore ha fatto sedere al tavolo della ripartenza tutti gli attori coinvolti, un patto a 360 gradi per la ricostruzione in Emilia. Il territorio coinvolto valeva il 2% del PIL ed Errani si è inventato il quadro normativo e quello finanziario come il prestito da 6 miliardi, da 6 miliardi ottenuto appunto per la ricostruzione. Quindi anche qui un po' di fact checking e number checking, perché in molti hanno accusato Errani di non essere adatto, che il modello della ricostruzione non ha funzionato. In realtà, per esempio, credo di averlo messo da parte, c'è anche chi è stato protagonista della ricostruzione in Friuli e dice: nessuna illusione che si possa fare in meno di 10 anni. Eccolo qua, pagina 9 del Corriere della Sera, Gian Antonio Stella proprio riprende alcuni dati di quella ricostruzione che viene comunque definita, che è passata insomma alle cronache come esemplare. Il terremoto fu il 6 maggio del 1976, ma ci sono voluti 10 anni per finire i lavori di ricostruzione. Ora pensiamo anche che magari dal 76 a oggi ci sono anche stati degli sviluppi tecnologici che possono forse in alcuni campi accelerare la ricostruzione e la messa in sicurezza del territorio. Però insomma i tempi non possono essere brevi, né visto che si spera che siano interventi il più definitivi possibile, né affrettati. Un altro approfondimento sul terremoto lo trovate sul Messaggero, che ci racconta quante scosse ci sono state dopo quella di mercoledì, tra la notte di martedì e mercoledì, e ieri notte, quindi per il Messaggero, tra la notte tra giovedì e venerdì, no, tra mercoledì e giovedì per il Messaggero, perché ieri per chi legge, ci sono state altre due scosse superiori ai 3 gradi, che vuol dire la metà di quella della notte tra martedì e mercoledì, però comunque non deboli, ecco, queste scosse, anzi. Sempre sul Messaggero, visto che abbiamo detto quanto è grave l'emergenza e quanto bisognerebbe intervenire immediatamente sul fronte dei trasporti pubblici, ma anche dell'immondizia, a pagina 38 del Messaggero, tutte le emergenze, appunto i lavori pubblici, i trasporti, le partecipate, le famigerate partecipate, ma anche per esempio i parchi romani, che sono, dice il Messaggero, in agonia, con pericolo di crolli in molti punti. Dai bus alle buche, la città è in panne. E naturalmente non aiuta che appunto in questo momento la giunta abbia perso 5 pezzi, e soprattutto i due presidenti delle due municipalizzate che devono occuparsi, da una parte l'ATAC del trasporto pubblico e dall'altra l'AMA della gestione dei rifiuti. Vi dicevo a pagina 9 l'articolo di Stella sulla quella che viene definita la lezione del Friuli: niente illusioni, per ricostruire ci vogliono 10 anni. ancora molti, molti altri approfondimenti. Interessante anche quello delle operazioni che si stanno ancora svolgendo, ma che sono state avviate da parecchi giorni per salvare i tesori del Museo Civico di Amatrice, che è stato, come la maggior parte degli edifici del paese, devastato dal sisma. In azione una squadra di vigili del fuoco guidata da 4 funzionarie del ministero. E da qui il titolo: L'arte salvata dalle donne, tra le macerie riemerge un tesoro. E tra l'altro oggi invece ci racconta Repubblica, Renzi sarà a Milano per incontrare il rettore del Politecnico di Milano, Azzone, perché al Politecnico ci sono anche ingegneri specializzati, per esempio nelle misure antisismiche, e quindi l'Ateneo sarà direttamente coinvolto nei progetti post-sisma e affronteremo non solo la ricostruzione, ma anche il tema della prevenzione dei danni, così dice il rettore Azzone. Massimiliano Fuksas, che a Roma ha firmato, anche se non è ancora completata, la famosa nuvola, a cui sono seguiti tantissimi, tantissimi, tantissime polemiche, il centro congressi di Roma, che appunto è costato molto più di quello che si pensava all'inizio, interviene sulla questione del terremoto. Ricorderete, settimana scorsa Renzi era andato a Genova a sentire il parere di Renzo Piano, storico rivale di Fuksas, quindi sembra un po' che appunto Fuksas voglia dire a sua volta la sua, e in questa intervista Francesco Grignetti spiega: sono indignato per tutte le costruzioni, il tipo di costruzioni che ho fatto, che ho visto ad Amatrice. Per la mia nuvola ho previsto anche un'enorme molla asismica per, appunto, mettere al sicuro questo centro congressi da un eventuale terremoto che dovesse colpire Roma. Non so se è lo stesso ascoltatore che già appunto mi aveva punzecchiato sulla questione di Sochi. Dice: come mi permetto di trattare con sufficienza le tesi formulate da Sochi? Se ho dato questa impressione, in qualche modo me ne scuso. Non è una questione di sufficienza, è che io mi chiedo da molti mesi come sia possibile criticare sempre qualcuno da parte di sicuramente un esponente del mondo cattolico, che sicuramente sa più di me di teologia e in particolare di cattolicesimo. Però mi sembra comunque, di fronte ai grandi cambiamenti che sta cercando di introdurre Papa Francesco, mi sembra un po' così strano che ci sia questa critica che sembra sempre e comunque portata avanti da Antonio Socci. Ma così magari chiudiamo questa questione. Comunque, grazie a questo ascoltatore e a tutti gli altri che stanno mandando i messaggi. Un'ultima segnalazione sul terremoto dalle pagine interne del giornale, che ci aggiorna sulle grandi donazioni che sono fatte in questi giorni. Da Briatore 500.000 euro, una lezione a Zuckerberg, e mi perdonerà l'ascoltatore che dice che uso troppo inglese, ma per esempio gli chiederei come facciamo a tradurre fact-checking in italiano. Purtroppo è un'espressione molto efficace in inglese che non ha una traduzione in italiano altrettanto efficace. In ogni caso, Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, uno degli uomini più ricchi del mondo, è venuto in Italia a tenere, lo ricorderete, una lectio magistralis alla LUISS, ha poi incontrato tra l'altro anche il Papa, e ha regalato 500.000, ma attenzione, non cash, ma di pubblicità su Facebook, cioè offrendo a tutti quelli che hanno bisogno di promuovere le loro iniziative, soprattutto quelle di solidarietà, naturalmente post-terremoto, appunto l'equivalente di quello che pagando costerebbe 500.000 euro. È stato molto criticato per questo, e quindi il giornale invece dice, appunto, Briatore, la stessa cifra, ma in denaro contante e non in pubblicità. Vi segnalo, ultima segnalazione, approfondimento sul terremoto, l'articolo sul Foglio, che tra l'altro ha una pagina che anche qui con un titolo a effetto, al posto della prima O mette una I, quindi il figlio, perché si torna sulla questione del Fertility Day. Però l'articolo principale è di Annalena Benini, che è andata nelle zone terremotate nei giorni subito dopo il sisma, e in questo articolo racconta la rabbia dei bambini in silenzio o in fuga verso la città distrutta. Il presidente di Telefono Azzurro racconta i figli sopravvissuti al terremoto e i giochi senza più gioia. E dalle altre, insomma, per toccare anche altri argomenti, ho trovato sul Secolo XIX questa notizia, ce l'ha solo il Secolo, per evidenti motivi geografici, che spiega che martedì dovrebbe riaprire la strada di Arenzano, dove, forse lo ricorderete, In marzo c'è stato un crollo, è stata interrotta la ferrovia e la strada, perché mi sembra particolarmente interessante, perché sicuramente il rischio di terremoti è altissimo in Italia, ma è anche altissimo il dissesto idrogeologico di cui poi ci ricordiamo quasi sempre quando magari esonda un fiume o, come in questo caso, dopo forti piogge, perché era successo così, è franato un intero versante di questa strada, che ha imposto per alcuni giorni la chiusura della via Aurelia e anche dei binari in quel tratto tra Genova e Savona. La prima pagina di Impresa e Territori del Sole 24 Ore è dedicata ai dati sull'auto, una notizia positiva, perché le immatricolazioni di agosto, dopo che c'era stato un rallentamento in luglio, forse lo ricorderete, corrono di nuovo, più 20,1% rispetto all'anno precedente. L'articolo di Augusto Grandi con tutti i dati sulle singole case automobilistiche. Un aggiornamento sulla vicenda di cui tanto abbiamo parlato, che poi si è un po' spenta in agosto, quella della vendita del cambio ai vertici di proprietà del gruppo RCS, che controlla il Corriere della Sera oltre a moltissimi periodici. Sapete che tra le due cordate che si sono fronteggiate ha vinto quello di un altro editore, Umberto Cairo, l'editore della Sette, e poi ci sono state delle querelle sulla legittimità dell'operazione finanziaria che ha portato a questa cessione. Ora pare che sia stato tutto fatto secondo le regole che ci sono in Italia, e quindi si va verso la definizione del nuovo CDA. E per i soci di minoranza, quindi il socio di maggioranza è Umberto Cairo, che tiene le deleghe per sé, e Gaetano Miccichè di Banca Intesa, che è un po' colui che ha orchestrato questa operazione, sarà probabilmente vicepresidente, o comunque entrerà nel nuovo board di RCS. Per i soci di minoranza, invece, la proposta è di far entrare Della Valle, Tronchetti e Cimbri, che erano alcuni degli imprenditori che avevano partecipato, invece facevano parte dell'altra cordata. Vi segnalo una delle ultime puntate del Focus Estate, anzi forse è proprio l'ultima puntata perché oggi è venerdì, l'iniziativa del Sole 24 Ore per aggiornare i professionisti su tutte le novità normative che o sono già in vigore o che comunque entreranno nel vivo del loro lavoro adesso con il ritorno dalle vacanze. Oggi ci si occupa di passaggio generazionale, e per quanto siano appunto definite una guida per professionisti, in questo caso, siccome si parla di temi come le donazioni, l'eredità, in generale appunto il diritto di successione, forse alcuni dettagli tecnici sono fin troppo tecnici appunto per chi non è commercialista, non è fiscalista, ma comunque consiglio a chiunque, e penso che non ci sia persona che non sia toccata da questi temi, di dare una scorsa a queste due pagine, perché appunto si parla del fisco che viene applicato alla successione, di come pianificare una successione magari complicata quando le famiglie sono numerose, e anche come, per esempio, come comportarsi quando addirittura si è parte di una famiglia che ha delle attività magari quotate in borsa. Vi segnalo sul tema Apple, e qui un altro mi fa sorridere questa cosa, perché ho ricevuto molti messaggi sulla pronuncia di Apple. Purtroppo, ripeto, pochissime certezze nella vita, ma sulla pronuncia di alcune parole inglesi qualcuna sì, per aver avuto la fortuna di aver vissuto tanto tempo negli Stati Uniti. Apple si pronuncia Apple, e quindi io lo pronuncio così perché mi viene più naturale, non è una posa, che purtroppo quando uno ha nelle orecchie la pronuncia corretta, poi viene spontaneo usarla. Non c'è niente di male a sbagliare pronuncia, ma proprio niente, e lo sappiamo perché quando andiamo all'estero tutti i nostri cognomi vengono storpiati. Però insomma, se invece si ha, ripeto, la fortuna, tanto vale usare quella corretta. A proposito del caso di Apple, quindi vi segnalo questa intervista molto interessante a Luca Maestri, che è il numero due praticamente di Apple, perché è il Chief Financial Officer, cioè quello che si occupa proprio di tutta la parte finanziaria della gestione di una società. Ed essendo Apple un colosso, il suo ruolo è ancora più importante. È romano, ha 53 anni, però appunto lavora in California, e pensate, ci ricorda il Corriere, nel 2015 ha guadagnato 25,3 milioni di dollari, quindi considerato prezioso. Difende la sua azienda, l'azienda per la quale lavora, da tutte le accuse che ha ricevuto, e dice che tutto sommato, il trattamento fiscale che è stato applicato all'azienda, che lo ricordiamo negli ultimi anni ha avuto un'aliquota di tasse sugli utili dello 0,005%, era comunque una cosa, legale, ma certo nessuno ha mai detto che hanno evaso, semmai hanno eluso il fisco. Comunque è interessante perché ci racconta anche come lui stesso sia conscio e tante altre aziende americane che il problema è che non c'è un'uniformità nel trattamento fiscale delle società, persino in una zona come l'Unione Europea che magari si presume, essendo appunto un'Unione Europea, si presume su alcune norme sia omogenea, ma così non è. Vi segnalo una notizia che ho trovato soltanto sulla Repubblica e riguarda Hong Kong, dove domenica si terranno delle importanti elezioni. Ce lo racconta Giampaolo Visetti, che già per molto tempo era stato inviato in Cina dalla Repubblica. La regione, l'ex colonia britannica, che nel 1989, adesso non vorrei che qualcuno mi correggesse, forse 99, scusatemi, 1999, così come come Macao, in quell'anno è tornata al controllo della Cina, ma non è stato un passaggio facilissimo e adesso, ancora appunto a distanza di così tanti anni, Hong Kong ciclicamente in scena delle proteste perché idealmente una buona parte degli abitanti di Hong Kong vorrebbe tornare indipendente. E quindi da qui questo articolo su queste elezioni che ci saranno domenica e Giampaolo Visetti ci racconta: la Cina vuole reprimere le tentazioni secessioniste che tra i giovani, secondo alcuni sondaggi, pensate, raggiungono il 90%. E c'è anche chi ha nostalgia della corona britannica. Purtroppo non riesco a farvi altre segnalazioni, anche se anche oggi i giornali sono pieni di curiosità e approfondimenti, quelli che sono un po' a margine della cronaca, che i nostri colleghi di Radio 24 seguono egregiamente. Un grazie a Peter Bescapè in regia. Vi ricordo, ma cos'è quest'estate? Si parlerà sia delle polemiche sul Fertility Day che anche di temi un pochino più leggeri come i VIP sul lastrico. Abbiamo visto ieri le vicende di Gigi D'Alessio. Io domani ho ancora la rassegna stampa dei settimanali, domenica pausa della rassegna come da palinsesto agostano e poi ci risentiremo per chi vorrà domenica prossima perché da lunedì torna Alessandro Milan. Una buona giornata a tutti da Giulia Crivelli.